Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 17 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutte, sempre su Liberi Dentro ed Uradio TV, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Sono sempre io, Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma con Antonella Cortese da Parma. Buongiorno. Buongiorno Caterina, bentrovati. Allora, oggi la nostra cronaca ci porta a parlare di stage carcerari dei giovani magistrati in Francia, l'esempio di Parigi, a firma di Daniele Zaccaria su Il Dubbio. Ma facciamo prima un passo indietro. Oggi, prima di leggervi questa notizia, vorrei parlarvi di uno scritto di una persona detenuta che tocca un tema importantissimo, il concetto di persona e quello di dignità umana, una lettera che ci è arrivata ultimamente dalla nostra redazione di Eduradio. E da qui questo testo si estende poi a toccare il grave, al tempo stesso delicato nodo dei bambini in carcere, in cella, in spazi ridottissimi con le proprie mamme. Una lettera che ci tocca anche a noi come redazione di Liberi Dentro nel profondo, perché come scrive chi firma questa lettera, noi siamo persone che purtroppo hanno sbagliato, violando il ben noto contratto sociale, citando appunto Cesare Beccaria e anche il codice penale, ma questo non significa perdere la determinazione di persone libere, libere di pensare, di scrivere, di leggere, di perdonare, di amare, di ricordare, di analizzare eventi e trarre conclusioni personali. Quindi io saluto questa persona che ci ha scritto e questo ci porta da vicino anche alla notizia di oggi. Perché che cosa sta facendo la Francia? Quanti francesi credono che sotto sotto in prigione non si stia così male e che la vita di un detenuto in fondo sia migliore di quella di un disoccupato? Da questa domanda sono partiti i francesi per inventarsi qualcosa, per far capire meglio come si sta in cella. E pensate che 20 anni fa erano appena il 18% i francesi che pensavano che in cella si stesse, come dire, non tanto male. 2 anni fa più del 50% pensavano che tutto sommato in cella non si stesse poi così male. E allora per superare questa deriva, ecco, è stato lanciato un progetto per fare in modo che i giovani magistrati conoscano più da vicino quello che è il carcere. La gente invoca spesso punizioni esemplari per i criminali, ma in realtà in pochi sanno quanto sia orribile la vita in galera. Infatti questa inchiesta mi lascia molto perplessa. Infatti, come dicevo prima, per evitare che i futuri magistrati vengano influenzati dalla Vox Populi o siano del tutto sconnessi dalla realtà, l'École Nationale della Magistratura prevede degli stage nei penitenziari obbligatori. Questi corsi durano quasi 3 anni e per una settimana gli allievi vivono all'interno di una prigione assieme alle guardie carcerarie. Quindi è un full immersion che lascia il segno nei futuri magistrati e che sgombra la mente da pregiudizi e stereotipi sulla comodità delle carceri. E scrive Valentine, una giovane procuratrice, vivere come un secondino per 7 giorni e 7 notti, dormire su una scomoda branda, consumare pasti immangiabili, osservare detenuti ammassati nelle celle, passare il tempo negli spazi comuni è stata un'esperienza fondamentale per poter capire il senso del mio mestiere. Ogni volta che chiediamo la reclusione per un imputato, dobbiamo avere ben chiaro il luogo dove vanno a finire i condannati, mentre vedo che il racconto sociale che si fa della prigione è del tutto distorto. Si ha quasi l'impressione che si tratti di un villaggio turistico dove le persone dormono, mangiano e fanno sport. Quindi lei dice, aggiunge, comprendere il significato e la portata delle proprie decisioni come futuri magistrati, no? E uscire dalla torre d'avorio delle procure è un aspetto centrale del lavoro della magistratura e una condizione necessaria per avere fuori di retorica una giustizia che non sia né vendicativa né accademica, ma vicina alle persone. Eh sì, è proprio così. Caterina, oggi che cosa ci canta Snoop Dogg? Oggi abbiamo Beautiful, un singolo del 2003 di Snoop, e ascoltatela perché è veramente bellissima. Oh, don't lose it. This new Snoop, come on, baby boo, you got to get into it. Gone fool with the player with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. In little Cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this. But everybody know who girl that you is. My baby boo shit, I get foolish. Smack a that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow throw and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body wagging, till we get blue in. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. E rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro Tu Radio. Continuiamo la nostra chiacchierata con Antonella anche già dalla puntata di ieri, dove parlavamo degli chef che riscoprono la propria cucina, i sapori della propria cucina. Oggi di chi ci parli? Oggi vi parlo dello chef senegalese Pierre Thiam, un grande ammiratore del fonio. E che gestisce tra l'altro due ristoranti, uno a New York e l'altro a Lagos in Nigeria. Tra l'altro possiede anche la Yolele, un'azienda che produce fonio e altri prodotti alimentari locali. Oltretutto lavora con piccoli coltivatori in tutta l'Africa occidentale con l'obiettivo di garantirgli un lavoro stabile e cerca anche di salvaguardare la biodiversità, cosa non trascurabile, evitando che alcune coltivazioni spariscano del tutto. E, Thiam, come vi dicevo, è senegalese, è cresciuto a Dakar, la capitale del Senegal, che secondo lui ha una delle culture alimentari più stimolanti del mondo. E, Dakar è un melting pot molto interessante, ci spiega, infatti è anche un porto, e quindi la dieta dei suoi abitanti combina prodotti di mare e cereali. Ma il Senegal è stato per tanti anni anche uno dei principali punti di accesso all'Africa e nei secoli i suoi piatti si sono arricchiti di nuovi sapori. E Thiam teme che gli ingredienti della sua infanzia stiano scomparendo, questa è la paura che abbiamo un po' tutti. E in Senegal infatti è rimasta una mentalità coloniale e disprezziamo ciò che è locale, questo è proprio quello che lui dice. Nei supermercati di Dakar si trovano in gran parte prodotti occidentali e solo il 10% sono senegalesi. E lui come pensa di invertire la rotta in qualche modo? Lui ha aperto, ha fondato la Yolele, questa diciamo azienda, con la quale vuole riconquistare il controllo della dieta e del sistema alimentare. E dice che il mercato non è semplicemente pieno di prodotti cattivi, ne è completamente dominato. L'agricoltura industriale ci impone 4 colture. Mangiamo riso, soia, grano, mais e ci dimentichiamo totalmente di cereali come il fonio, che lui, vi dicevo, produce. L'agricoltura intensiva ha effetti negativi sull'ambiente, tra l'altro, genera gas serra ed esaurisce le risorse idriche. Il 70% dell'acqua del pianeta è usato solo per queste 4 colture, mentre il fonio, il miglio, il sorgo non richiedono molta acqua e sono molto più nutrienti. Un'altra coltivazione infatti che Thiam vuole rilanciare è quella degli arachidi bambara. E sono legumi dal sapore molto simile agli arachidi che conosciamo noi, quelli insomma normali, ma non contengono allergeni. Erano diffuse in tutta l'Africa occidentali prima che le comuni arachidi più facili da coltivare conquistassero il mercato. Ma le arachidi bambara sono sicuramente più nutrienti e venivano coltivate a rotazione, quindi c'è anche appunto questo discorso dell'alternanza e a rotazione con il fonio appunto, perché contribuiscono a mantenere fertile il terreno. È molto interessante che questi chef cerchino di coniugare il gusto, il sapore del cibo al benessere del pianeta. E infatti è proprio così. E a tal proposito ti voglio parlare di un altro chef che è molto orientato in questo senso. Si chiama Omer El Tigani, È uno chef originario del Sudan e da piccolo ha osservato da vicino le donne che l'hanno cresciuto, partecipando all'attività in cucina e godendo dell'intimità caratteristica di questo spazio. E infatti è nato anche un libro che insomma sarà pubblicato molto a breve, che si chiama Sudanese Kitchen. E il Tigani vorrebbe che il cibo servisse a offrire un'immagine più realistica del suo paese. Infatti lui dice: quando si parla del Sudan, le persone pensano a guerra e distruzione, ma in realtà è un paese con un'incredibile cultura gastronomica. Il Sudan ha una cucina raffinata con radici molto antiche. Infatti, facendo anche ricerche per il libro che sta per pubblicare, ha raccolto informazioni in tutto il paese, visitando dei villaggi, comunità, e ha trascritto ricette che riflettono una grande varietà regionale. E, come sai, la conoscenza di questi piatti è affidata alla memoria di poche persone, spesso nonne, zie, così. Ma lui si è dato proprio una missione, quella di impedire che queste tradizioni vadano definitivamente perdute. E ora, a trascrivere le ricette, ha imparato anche a cucinarle, oltre che appunto a raccoglierle, e le serve in occasione di eventi che organizza in giro per il paese. Per esempio, c'è il moulah, che è un piatto sudanese che il Tigani ama particolarmente, che è fatto con cipolle e carne, di solito macinata, e l'aggiunta di verdura. E un altro piatto classico è il kisra, che è un impasto fermentato cotto su un piatto bollente per creare delle sfoglie sottili simili all'ingera che si mangia in Etiopia. La kisra è fatta però con il sorgo, un cereale che ricorda il miglio. Insomma, è un piatto molto nutriente e che deve essere riscoperto. Grazie Antonella. Restando con Boubacar, cosa lanci? Duna ma Yelema. Bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio e siamo sempre con Marcello Mattè. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Marcello, la scorsa settimana ci siamo lasciati parlando del tuo incontro con persone credenti o non credenti all'interno del carcere. Tornando quindi alla tua ricca esperienza a contatto con persone detenute, ricordo che dal 2016 sei insieme a loro come cappellano, ma già dal 1995 eri presente in carcere come volontario. Sì. Quindi, qual è l'importanza della presenza di un sacerdote all'interno di un carcere? Sono consapevole che tutto quello che sto per dire può essere usato contro di me perché evidentemente un conto è parlare della figura, un conto è parlare di quello che io riesco effettivamente a fare, mi sento inadempiente. Però credo che un sacerdote dentro al carcere sia una presenza che può essere significativa per le persone detenute, ma anche per chi vive fuori dal carcere. Mi sento in questo senso mandato dalla comunità cristiana per presentare la premura nella carità di Gesù verso tutte le persone che per qualunque motivo, innocente o colpevole, si trovano a soffrire. È la solitudine di tutti il male più grande, quella che si viene sperimentata nel carcere, ancora di più perché è una solitudine aggravata dal peso della colpa. E la solitudine è poi un male che amplifica ogni altro male. Quello che solo in parte noi abbiamo sperimentato durante la fase più acuta della pandemia, ci sono persone che lo stanno sperimentando da prima e che continueranno a sperimentarlo ancora. Il sacerdote, in questo senso, incarna l'atteggiamento della comunità cristiana che, obbedendo al Vangelo, non giudica, ma però si fa vicino senza giudicare. Il sacerdote ha un compito di mediatore. Con una parola che forse può suonare presuntuosa, io credo che ogni sacerdote sia un pontefice, cioè uno che crea dei ponti, che stabilisce dei ponti, che porta la sollecitudine della comunità cristiana dentro il carcere e però porta anche nelle comunità cristiane la provocazione a una carità che non giudica e accoglie. In questo senso aiuta le comunità cristiane a convertirsi al Vangelo. I muri costruiti dagli uomini non arrivano al cielo, questa è la nostra certezza, la nostra speranza. Piuttosto dentro e fuori dal carcere siamo tutti sotto lo stesso cielo. E mi piacerebbe, ecco, nel mio servizio, riuscire a far vedere un po' di cielo a chi si trova al chiuso, non solo al chiuso di una cella, ma al chiuso di una condanna. Aiutare a credere che il cielo resta sopra di noi per quanto il soffitto di una condanna lo possa impedire alla vista. Il sacerdote in un carcere ha un altro ruolo che è discernere, perché è cappellano di tutto il carcere, delle persone detenute, ma anche degli agenti, delle persone che a vario titolo vi operano. Mi piacerebbe essere capace di aiutare a capire e apprezzare che se c'è un gioco delle parti a dividere, però la parte in gioco è l'umanità che ci unisce e che ci accomuna. Grazie Marcello, e in questi anni credo che tu ne abbia sentite e viste tante. Mi puoi dire brevemente, prima di lanciare il nostro brano musicale, come cambia la Chiesa dentro un carcere? Ecco, mi piace che tu parli di chiesa dentro un carcere perché di questo si tratta. Comunemente siamo portati a pensare che ci sia una chiesa che va in carcere. In questa visione i volontari e il cappellano sarebbero dei rappresentanti con la delega alla carità verso le persone detenute. E invece no, cappellano e volontari vanno in carcere per incontrare e aiutare a crescere una chiesa che è già lì. C'è una chiesa che è in carcere, che non può unirsi alla chiesa, alla comunità cristiana che è fuori dal carcere per la celebrazione della propria fede, della propria speranza. Per parte mia sono convinto che non si debba, che non solo debba cambiare la chiesa dentro un carcere o entrando in carcere, ma debba cambiare tutta la chiesa a partire dalla realtà del carcere, perché il carcere è la soluzione, quanto sia efficace non lo so, che abbiamo adottato per risolvere il problema del male che vive in mezzo a noi. Il Vangelo di Gesù sul quale si fonda la Chiesa dentro e fuori dal carcere non considera la colpa un motivo per buttare via la chiave, buttare via la storia di nessuna persona segnata dalla colpa. Anzi, la Chiesa sa che davanti alla colpa il suo primo compito è quello di tendere una mano e offrire un'opportunità concreta di nuova vita. Spesso, vedi Caterina, si cita il capitolo 25 di Matteo. Ero in carcere, siete venuti a visitarmi per dare fondamento alla sollecitudine cristiana verso le persone detenute. Ma la mia convinzione è che sia un altro l'immagine evangelica alla quale mi ispiro, e cioè pensare che la Pentecoste, la sera di Pasqua, quando Gesù risorto raggiunge quell'embrione di chiesa nascente, che sono gli undici, però li raggiunge mentre sono al chiuso. Quindi la chiesa nasce come comunità cristiana, come comunità che si trova in una situazione al chiuso e viene raggiunta da Gesù risorto che spalanca questa situazione. Grazie Marcello, hai citato il Vangelo 25 di Matteo, io lancio una canzone adesso, sempre dal Vangelo di Matteo, una canzone rappata di Chuckies e Chucks. We West Coast to the bone, baby. Seattle to Dago. Yeah. Just cause my chucks is laced and my khakis green. It don't stop. Don't mean I ain't on crisis. Don't mean I ain't on crisis. And if you ain't feeling the way we stay mobbing these streets. I catch you slipping at that intersection. Window rolled down, heat pointing your direction. I know you thinking that it's on and it's homicidal. But all I'm dumping is this word out the Holy Bible. Since my arrival, been some talk in the atmosphere. Pharisees vex how I flex in my khaki wear. Hoods to vernacular, still better cross of Christ. You preaching death to the hood, cat, we all for life. I earned the stars on my chucks, homie, bear witness. Every ride across my path on my prayer hit list. I keep it relevant from Genesis to Revelation. Laying hands on the block, got the devil hating. Saints tripping cause they see me in a hood car. I want a set breaking bread with a hood star. But one ship instead of 99 is worth more. And that's the homie from the turf. What you tripping for? Peep the chorus. Just cause my chucks is laced and my khaki's green. Don't mean I ain't no crisis. I ain't no crisis. And if you ain't feeling the way we stay mobbing these streets. West living, my hustle got me prayed up. Who's tripping on them cats? I sprayed up. Get that dub. You know how it was. Used to set trip when I heard what up, cuz. B-Dawg mentality turned Christ-like. As I mob from the pulpit, my game's tight. Homie love loose, some thug love is weak. There's heat in the world. Watch out, street. 36 white, 28 on the ounce. I bet I make this gospel bounce. Moving cheese through cheese. Rieccoci, bentornati, sempre su Liberi Dentro. Siamo a colloquio con il nostro Marcello Mattei, il cappellano del carcere della Dozza. E Marcello, i detenuti chiedono i sacramenti e qual è il motivo per cui li chiedono? Stiamo parlando di piccoli numeri, le storie, anche se poche, non sono per questo però meno significative. Più delle volte ricevo la richiesta del sacramento della cresima per completare il cammino di formazione cristiana interrotto da ragazzi, spesso anche perché qualcuno vuole prepararsi a un altro sacramento che è quello del matrimonio. Sono molto rare le richieste di battesimo cristiano da parte di chi è cresciuto nell'ambiente di un'altra religione, richiesta che io cerco inizialmente di scoraggiare, ma che poi può diventare invece un percorso molto bello. Ma volevo raccontarvi un episodio che mi ha divertito e nello stesso tempo ho trovato interessante. E avevo notato che alla celebrazione della messa si era da qualche domenica giunto un giovane, e dalla corporatura, diciamo così, caucasica, non mi dava il sospetto che potesse appartenere ad un'altra religione, pensavo che fosse un europeo di formazione cristiana. Dopo qualche domenica, che questo qua si presentava però sempre anche alla comunione, mi avvicina per dirmi, padre Marcello, vorrei ricevere il battesimo, ho già fatto il corso di preparazione nel carcere dove stavo prima. E io gli rispondo, ma come? Se hai fatto il corso di preparazione dovresti sapere che non puoi accostarti al sacramento della comunione senza il battesimo. E lui mi ha risposto, sì, lo so, però tu quando dici la messa dici sempre prendete e mangiatene tutti. E però io ho notato, mi diceva sempre questo ragazzo, che dopo la messa mi veniva sempre mal di testa. E allora vorrei chiedere il battesimo perché forse se ricevo la comunione dopo il battesimo il mal di testa non mi viene più. Giustamente. È stato divertente, però mi piaceva questa fiducia nell'efficacia del sacramento. Una storia molto bella che si allaccia anche a quando abbiamo parlato del per molti e per tutti qualche puntata fa e lui si è sentito incluso, quindi è bello. Lanciaci una canzone. Visto che tu hai lanciato un salmo, propongo un salmo anch'io degli U2, Salmo 40, che è un salmo a me molto caro, ma è molto interessante anche la storia, se avete occasione di andarla a leggere da qualche parte, la storia di come è nato questo brano. Grazie Marcello, ci rivediamo giovedì prossimo. Come ogni giovedì, dopo le parole del cappellano del carcere della Dozza, Marcello Matteo, con cui stiamo avviando questo nuovo format, colloqui con il cappellano, perché lui ci racconti la sua esperienza in questi tanti anni di servizio. Vi salutiamo, vi ridiamo appuntamento tra poco con le rubriche oggi parliamo di, avremo i dialoghi sulla cittadinanza. Vi ricordo di scriverci, redazione liberidentro@gmail.com, proprio come state facendo, grazie che lo fate, e anche per posta a Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. Un saluto da Antonella Cortese, da me e ovviamente dal nostro Pasquale Pitagnello al montaggio delle nostre puntate, e a domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.